Eccoci di nuovo in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 www.ondarossa.info. Siamo all'inizio di una nuova puntata di Corrispondenze Operaie, una puntata che inizia con ricordando un grave lutto che è avvenuto ieri ad Italy, piazzale dietro la stazione Ostiense. Un lavoratore, un giovane lavoratore precario, è morto di infarto sul posto di lavoro. Difficile magari assegnare delle responsabilità dirette, non sappiamo bene la dinamica, però di certo sappiamo benissimo che i carichi di lavoro, lo stress, l'ambiente insalubre, se non hanno contribuito necessariamente direttamente alla morte, certo non l'hanno aiutato durante la vita e sono solo serviti a fare i profitti di altri che su questi corpi ci lucrano. Non so se Mariangela vuole aggiungere qualcosa in merito a quanto avvenuto ieri. Ci sia poco da aggiungere, è stata una grave tragedia e per questo mi sento di dire che insomma tutti i solidali ci stringiamo al dolore che ha colpito la famiglia di questo ragazzo giovanissimo. Volevo aggiungere, ecco, che è un ragazzo che lavora nel settore della ristorazione a Italy. Nel settore della ristorazione sono tutti ragazzi molto giovani, al di sotto assolutamente dei 30 anni, e uno dei grandi problemi che ci si è posti ieri quando questo ragazzo è stato male è anche stata l'assenza, no, di strutture di primo soccorso. Non c'era una persona dentro una struttura grande come quella di Italy, la grande distribuzione, capace, in grado di fare anche solo un massaggio cardiaco a questo ragazzo, che quindi è arrivato già esanime, insomma, quando è arrivato il 118 e quando poi l'hanno portato in ospedale. Ecco, questo non deve succedere, non deve mai succedere, perché non è accettabile, non è possibile morire di lavoro, non è possibile morire di precarietà. Bene, allora potremmo già cominciare con la prima corrispondenza. E secondo dopo uno stacco musicale. E allora iniziamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie parlando di scuola. E quando siamo a maggio, e quindi parlando, visto che siamo a maggio, per parlare di scuola dobbiamo parlare purtroppo di Invalsi. Siamo al telefono una corrispondenza con Roberto, che è un docente della scuola media. E, Roberto, mi senti? Roberto? Pronto? Roberto, ci sei? Sì. Ok. Sì, eccomi. Allora. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Parliamo di Invalsi. Intanto, che cos'è l'Invalsi? Diciamo che cos'è l'Invalsi. La sigla Invalsi sta per Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione. Che cos'è? Un ente di ricerca privato alle dirette dipendenze del MIUR, che lo finanzia ogni anno, con tanto di lavoratori precari al seguito che hanno il compito, no, di elaborare questi test da somministrare nelle scuole e ovviamente per poi somministrarli. E di cosa si tratta? Si tratta di prove, test d'ingresso a quiz con domande a risposta chiusa che vengono somministrate nelle scuole a partire dalla scuola primaria, nell'ultimo anno della scuola primaria se non sbaglio, nell'ultimo anno della scuola media, dove a partire dal 2009 sono obbligatorie come prova dell'esame finale di terza media, e poi nel secondo anno delle scuole superiori, e chissà che l'anno prossimo, a partire dal prossimo anno, al 2015-2016, non vengano anche introdotte nell'esame di maturità della scuola secondaria e forse anche nei test. È una proposta che stanno facendo. È una proposta, esatto. Però io voglio che adesso, Roberto, tu ci dici perché, cioè effettivamente, a cosa servono, no? Perché sono stati elaborati questi test, a cosa servono? Perché detto così sembrerebbe, no, quasi un'inutile perdita di tempo che viene fatta nelle scuole, un'inutile scucciatura per questi studenti. Invece perché vengono fatte queste scuole? Perché è necessario dire no all'Invalsi? Diciamo, la posizione ufficiale di chi promuove l'Invalsi è quella che i test servono ad un monitoraggio generale del sistema scuola, perciò diciamo, la proposta che loro fanno è quella di una valutazione del sistema scuola nel suo complesso attraverso delle prove uguali per tutti, ovviamente commisurata al livello dei ragazzi a seconda dell'ordine di scuola. Ci sono due prove nella primaria, ce n'erano due, ma adesso è diventata una alle medie, che è stata inserita proprio nell'esame di terza media, e vorrebbero anche inserire questa prova nell'esame di maturità. Diciamo, la loro posizione ufficiale è quella che queste prove servano a valutare un po' l'andamento generale della scuola, teoricamente anche per aiutare, per cercare di fare delle operazioni di miglioramento laddove se ce ne fosse bisogno, a livello di singoli istituti piuttosto che di territorio, eccetera eccetera. In realtà, insomma, sappiamo bene anche dall'analisi di situazioni simili in altri paesi che queste prove hanno in realtà il vero scopo, il solo scopo è quello del controllo delle scuole stesse e di una sorta di sistema fatto di premi e punizioni che serve in sostanza a diminuire i costi dell'istruzione pubblica. Cioè loro attraverso un'analisi, una valutazione dell'andamento degli istituti cercano di trovare il modo per far comunque funzionare le cose con una diminuzione generale di fondi. Questa è la posizione che il movimento ha assunto rispetto a questa somministrazione di prove, che in realtà già dall'inizio, insomma, è stata osteggiata, anche perché le prove, che ufficialmente dovrebbero essere anonime, sono in realtà collegate ai singoli valutati attraverso dei codici, e quindi si può benissimo risalire alla persona che, scusami, ha fatto la prova, all'insegnante che a tale persona ha insegnato, e quindi a fare un vero e proprio, come dire, esame ai singoli alunni, agli istituti, agli insegnanti. È un sistema in sostanza per verificare l'andamento scolastico attraverso dei test che sono uguali per tutti, e già questa è una cosa pedagogicamente aberrante, ma poi che spesso non sono legati alle realtà territoriali. Assolutamente, insomma, sono anche sganciati dai programmi. Gli insegnanti stanno facendo le barricate, sì? Sono anche sganciati dai programmi, dico, questi test, quindi alla sono fine... in parte sganciati, in parte sganciati dai programmi. Cioè gli esperti dell'Invalsi somministrano queste prove ovviamente diciamo difendendole con l'idea che queste servano a valutare un certo tipo di competenze dal punto di vista matematico piuttosto che linguistico. In realtà le prove sono in buona sostanza sganciate dai programmi, cioè servono a fare una valutazione generale delle abilità degli individui, ma non tengono conto di una serie di cose fondamentali, ad esempio la differenza che ci può essere tra chi vive la realtà di una scuola di periferia piuttosto che quella di un quartiere bene di una grande città, no? Certo. E quindi queste sono ovviamente delle differenze che poi fanno la sostanza proprio dell'insegnamento. Senti Roberto, quindi mi pare, insomma, dalle tue parole di poter innanzitutto estrapolare, no, due concetti fondamentali, cioè che attraverso queste prove, da un punto di vista didattico, queste prove vengono spacciate come un criterio, un sistema valido di valutazione, ma poi di fatto a un punto di vista didattico servono soltanto a dirottare, no, verso una nuova modalità di determinare programmi e modalità di insegnamento, sì, togliendo poi libertà al singolo insegnante. Molti insegnanti hanno deciso di adottare dei test proprio specifici per fare le prove in Valsi, magari rinunciando a delle ore di lezione, non so, di storia, geografia, di matematica, sì, ma addestrando gli alunni a fare quiz. E questo già, insomma, vi può dare un'idea di quello, certo, che significa agganciare le prove, certo, alla realtà della classe, no? Ti cambia proprio la didattica. Gli insegnanti, cioè, addestrano i ragazzi per fare le prove perché hanno paura di essere a loro volta valutati sulla base dei risultati delle prove. E quindi alla fine, no, è tutto, no, un addestramento ai quiz, un addestramento a un sistema che di spirito critico e di coscienza critica, ben po', di sviluppo della coscienza critica, ben poco. Il quiz è quanto di più lontano dalla possibilità di fare un ragionamento articolato su qualsiasi cosa, no? Senti, invece, da un punto di vista economico, tu dici, hai detto prima giustamente che anche questo è uno strumento nelle mani del Ministero per tagliare, no, sulla spesa che gli costa. Sì, in realtà su questa cosa del Ministero, perché formalmente l'Invalsi è autonomo, poi in realtà sappiamo benissimo che è fortemente agganciato non solo col Ministero, ma anche con una serie di realtà che ad esempio fanno capo a Confindustria. Certo. E quindi si può capire a cosa vanno, dove vanno a parare, no? L'aziendalizzazione della scuola, il taglio, il risparmio, ad esempio c'era la Fondazione Agnelli, adesso ci sono stati problemi di relazione all'interno, sì, ma insomma sono queste le persone che fanno riferimento al carrozzone dell'Invalsi. Quindi aziendalizzazione della scuola, privatizzazione della scuola e per di più, no, da questi testi si cercherebbe, no, in qualche modo, in maniera del tutto arbitraria, di capire quali le sono le scuole di serie A, le scuole meritevoli e quali sono le scuole di serie B, chi andare a finanziare e chi no. Esatto, pensa che addirittura a Milano hanno fatto delle sperimentazioni in cui attraverso i test Invalsi, non solo, ma diciamo era uno degli strumenti fondamentali per fare una valutazione, venivano premiate le migliori scuole tra un tot scuole che erano state prese per la sperimentazione, perciò diciamo quelle che avevano i risultati migliori sulla base ad esempio di questi test venivano premiate proprio dal punto di vista monetario. E questo fa capire un po' quale sia la logica perversa che c'è dietro, no? Perché teoricamente se loro fossero, come dire, deontologicamente corretti, se te somministri un test poi alla fine vai ad aiutare chi sta messo peggio, non chi sta messo meglio. Invece loro danno i soldi a chi ha i risultati migliori. E magari scuole, no, più disagiate, scuole di periferia che vengono, diciamo, ritenute squalificate, vengono completamente abbandonate a loro stessi, ma per di più siamo in una fase in cui si parla, no, di continui tagli alla scuola, di continui tagli all'istruzione pubblica e non consideriamo per esempio il fatto che tutto questo sistema Invalsi costa effettivamente qualcosa come circa 15 milioni di euro l'anno. Sì, dai dati di Orizzonte Scuola sembra 14 milioni il complesso dell'Invalsi a regime, 14 milioni di euro l'anno, che insomma è quasi mezza finanziaria, no? Sì. E le sole prove, cioè la sola somministrazione, il momento in cui fanno la somministrazione, costa 1.800.000. Questi sono i dati di cui parliamo, cioè delle cifre enormi che potrebbero essere utili per far funzionare la scuola. Sappiamo che dai tagli della Gelmini gli 8 miliardi levati non sono stati più restituiti, siamo in costante difficoltà, problemi legati all'assenza di personale, docente data, insomma c'è una difficoltà nelle scuole pubbliche e questi spendono 14 milioni di euro l'anno per fare i quiz, insomma. Per fare i quiz. Senti, tu mi avevi raccontato, no, di un'esperienza pratica che avete fatto nelle scuole del terzo municipio, se non sbaglio, di un'esperienza proprio pratica di boicottaggio lo scorso anno di questi test Invalsi. Ce la vuoi raccontare? Sì, diciamo che abbiamo creato una sorta di coordinamento anti-invalsi in cui sono confluiti tutti gli insegnanti, la RSU, gli studenti, i genitori che diciamo si interrogavano sulla bontà di queste prove, e attraverso un confronto sono state adottate, ognuno nel suo ambito, delle forme di resistenza alla somministrazione della prova. Cioè gli insegnanti, diciamo, attraverso il passo a parola hanno cercato di far aumentare l'adesione allo sciopero, che ci sarà anche quest'anno, domani c'è lo sciopero a cui personalmente parteciperò, spero ci sia anche l'adesione di altri. E poi ad esempio la componente genitoriale, soprattutto quelli della scuola primaria, i genitori della scuola primaria hanno, in alcuni casi non hanno portato proprio i bambini a scuola, perché ovviamente non vogliono essere legati ad una valutazione assolutamente asettica come quella di un quiz a crocette, no? Che anche insomma come dire, è stressante per bambini di quell'età. E poi invece i ragazzi del movimento studentesco hanno proprio boicottato le prove, facendo una sorta di sciopero degli studenti, che so che anche quest'anno verrà fatto. Perciò diciamo, ognuno dal suo lato, scambiandosi di informazioni, cercando di far circolare questa idea che vede nell'invalsi uno degli strumenti principali di chi vuole una scuola aziendalistica, insomma ognuno dal suo lato abbiamo cercato di bloccare la prova. Quest'anno stiamo facendo un'esperienza simile, c'è il problema che due vittorie che sono state conseguite dal movimento sono un po' un freno per il boicottaggio stesso, nel senso che ad esempio alle medie è stata tolta la prova del primo anno, proprio sotto la spinta del movimento hanno tolto la prova del primo anno. E è stata la proposta della ministra per quanto riguarda la prova del quinto anno di maturità, è stata congelata. Perciò sono delle vittorie, ma in qualche modo sono anche un freno per continuare la lotta. E questo lo dico insomma a chi ci sta ascoltando, invece è un errore, perché insomma la lotta sarà ancora dura e lunga, perché questi attraverso gli invalsi proprio vogliono cambiare la natura della scuola pubblica, e quindi insomma bisogna tenere duro finché non ce li saremo tolti definitivamente di torno. Benissimo, senti, purtroppo il tempo stringe, quindi dobbiamo chiudere. Vorrei io infatti chiudere con lanciare appunto la giornata di domani, perché ricordiamo che domani, martedì 13 maggio, è la giornata di somministrazione delle prove alle scuole medie e alle superiori. In occasione di questa giornata e anche delle precedenti del 6 e del 7 maggio, quando sono state somministrate le prove all'infanzia e alla primaria, l'USB e Cobas hanno lanciato questo sciopero, no? Questo sciopero di tutto il personale della scuola. Quindi voi domani scenderete in piazza, giusto? Lanciamo l'appuntamento. Sì, saremo la mattina presto a volantinare di fronte a delle scuole che sono un po' il simbolo di questa aziendalismo degli invalsi. Dopodiché saremo davanti al MIUR per un sit-in, per far sentire la voce del popolo della scuola pubblica. Assolutamente. Allora domani invitiamo tutti e tutte a scendere in piazza contro la privatizzazione e l'aziendalizzazione della scuola. E Roberto, noi ti salutiamo, sei stato utilissimo per tutte le informazioni che ci hai fornito, e ci vedremo lotta. Sicuramente in piazza. Ciao. Grazie, ciao. Visto che si parla di scuola, mettiamo una bellissima canzone di Pete Seeger. What did you learn in school today? What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Sì, e torniamo in onda con Corrispondenze Operaie. E per passare questa volta alle lotte del fronte, sul fronte della logistica, perché è stata una settimana molto intensa in tutta Italia, in particolare qui a Roma e a Napoli, a Teverola. Ricordiamo lo sciopero e la vertenza ben conclusa con la firma dell'accordo di TNT, mentre fatti ben più noti per via, diciamo, di tutta l'eco mediatico che ha avuto successivamente, la vicenda dei lavoratori di IKEA di Piacenza. Infatti, diciamo, è una vertenza un po' particolare, perché è quella che ha aperto un po' le danze, diciamo, sul fronte della logistica in Italia circa un paio di anni fa, ed oggi ritornano i lavoratori della logistica di IKEA con nuove vertenze. Ci sono stati ben 33 sospensioni in questi giorni, e a seguito di queste sospensioni sono fioccate denunce su tutti i manifestanti e lavoratori che hanno bloccato, diciamo, l'ingresso dei magazzini. In questi giorni diverse iniziative di solidarietà, in particolare sabato, ci sono state in tutta Italia. Qui a Roma in particolare ricordiamo un volantinaggio davanti al centro commerciale di IKEA ad Anagnina, che comunque ha visto anche l'identificazione di diversi compagni andati lì in solidarietà a volantinare. E anche questo comunque ci dice molto sul clima di repressione che in particolare sulla lotta IKEA sta diciamo girando in Italia in questi ultimi mesi. Comunque non tolgo altro tempo, abbiamo in linea un lavoratore di IKEA. Ci sei, Abuda? Ci senti? Sì, buongiorno. Ci senti? Ah sì, ok. Allora ti chiedo prima di tutto di raccontarci brevemente cosa è successo e come è iniziato, diciamo, questo episodio di lotta martedì e mercoledì. Sì, allora, buongiorno. Io volevo dire che noi protestiamo per quelli nostri colleghi, per 33 che sono sospesi. È stato sospeso per un nostro collega che senza fare una visita di urina lo volevano tendere giù dal carrello, lo volevano fare facchino, che lui da 7-8 anni ha fatto questo lavoro di cassista, e loro, non avendo le prove, cioè non volevamo che fare la visita, che non avevano le prove, così che non avevano le carte, ecco. E poi ci siamo messi lì a scioperare, siamo fermati senza bloccare il magazzino, siamo fermati non 33 persone, però ci siamo fermati 150 persone. Hanno mandato 33 lettere di sospensione a 33 lavoratori, quelli che erano più attivi con il sindacato SICOVAS. Io puntualizzo solo questa cosa qua, che loro di dentro volevano eliminare il sindacato SICOVAS dentro il magazzino, perché dentro il magazzino non sa nessuno cosa succede. Ci sono tante cose, che la malattia non la pagano anche. Malattia dicono che la pagano il 60%, però da 5 giorni ci pagano 2 giorni. Infortunio lo pagano il 60%, perché noi cooperativa e operai di IKEA sono pagati 100% su tutto, e la cooperativa invece no. Ci alziamo dentro dei pesi, facciamo comunque dentro il lavoro è pesante, ci alziamo pesi di 70-80 kg, non siamo assicurati per niente. Comunque siamo usciti dopo l'altro giorno, siamo usciti fuori e niente, la polizia sempre è stata parte di loro, ci ha mangalato tutto. Noi adesso ci stiamo fuori finché non entrano tutti 33 i nostri colleghi, ci stiamo fuori fino alla morte, fuori ai cancelli. Sì, perché infatti voi siete in presidio permanente, quindi da mercoledì davanti al magazzino. Sì, siamo da martedì. Siamo da martedì e non siamo 33 fuori, siamo 250-300 dentro dalla cooperativa, sono solo 40-50 persone, e le altre persone che li portano da fuori, cioè che sono le persone che non hanno mai lavorato dentro, il magazzino, non le abbiamo mai viste, le hanno portate nuovi. Poi questi che sono 40-50 che fanno parte della cooperativa hanno i contratti determinati, per questo sono obbligati di venire, stanno minacciando gente, fanno di tutto solo per combattere noi, per buttare fuori. È un attacco diretto proprio a tutti i lavoratori iscritti al Sicobas. È un attacco diretto, che sono tutti contro noi, però a noi nessuno ci capisce, cioè non, ce l'abbiamo i fatti, ce l'abbiamo i busti paghi, ce l'abbiamo tutto, facciamo le ore, gli straordinari non li vogliono pagare, sabato lo pagano come venerdì, c'è sabato e un sabato straordinario maggiorato, sabato non può diventare un venerdì, e notturni non possono diventare diurni, cioè sono tante cose che non, con 200 ore non arrivi a prendere 1300 euro, cioè, è una cosa dentro incredibile, però loro ci tengono tutto dentro, perché dentro non sa nessuno cosa succede. Sì. Da me è questo tutto che... Sì, scusa, io infatti volevo, riprendendo un po' quello che avevi detto, volevo ricordare che appunto in questi giorni si è creata intorno ai fatti di Crea una campagna diffamatoria in tanti giornali nazionali e con tante dichiarazioni di tanti esponenti della CGIL e del Partito Democratico, puntando il dito contro i lavoratori che... con le loro azioni di protesta limiterebbero il diritto di lavorare di alcuni lavoratori. Come giustamente hai tu ricordato, questi lavoratori che sono stati chiamati, a cui si negherebbe il diritto, questo fantomatico di diritto di lavorare, sono in verità lavoratori chiamati per sostituire i lavoratori che stanno scioperando. Quindi c'è un atto illegale, la polizia difende un atto illegale. Sì, scusa, puoi ripetere? Questi che hanno è stato contro di noi, che sono usciti alla piazza, che dicevano che sono 250, che noi non li lasciamo dentro a lavorare, queste persone erano 30, loro esatto. Si portano le altre persone nuove, cioè da fuori, non, quelle persone che dicono, che protestano, che noi non li lasciamo lavorare, cioè hanno contratti determinati, contratti a un mese, a tre mesi, che non sono obbligati, li minacciano per forza, sono spaventate, sono i 20-30 che arrivano, non sono 250. Come si dice? Sì, invece passiamo invece a questi giorni, perché negli ultimi 2-3 giorni ci sono stati dei momenti molto importanti, in particolare ricordiamo ieri pomeriggio a Piacenza c'è stato un corteo che ha sfilato per le vie del centro, ci puoi parlare un po' com'è andato il corteo, che numeri c'erano? Sì. Ieri pomeriggio abbiamo fatto un corteo che contava più di 1000 persone, hanno dichiarato che sono 300, 350, 250, sono venuti i ragazzi a sostenere noi di IKEA, comunque sempre dal sindacato Sicobas, abbiamo fatto un giro, è stato un corteo grosso qua a Piacenza, sempre per il caso IKEA. Sì, hanno partecipato anche, ci sono state comunque iniziative di solidarietà da parte di anche altri lavoratori, in particolare ricordiamo hanno partecipato anche i lavoratori di Granarolo. No, lavoratori, allora Granarolo c'erano 100 persone, lavoratori Granarolo. Siamo stati la maggioranza più di Piacenza, la provincia Piacenza. Beh sì, un corteo ben riuscito comunque in ogni caso, però a proposito di iniziative di solidarietà, diciamo in questi giorni ce ne sono state diverse, non solo da parte dei lavoratori, ma in tutta Italia compagni e anche altre realtà di lotta hanno fatto diverse iniziative, tra cui ricordavamo appunto in apertura il volantinaggio davanti ai centri IKEA praticamente. Sì, questo è stato dei negozi IKEA di diverse città che hanno fatto solidarietà, cioè, per noi, che spiegando alla gente che noi produciamo come trattano gli operai, come li pagano gli operai, che produciamo noi, la roba la spediamo noi, cioè, noi lavoriamo con i pesi, cioè, con altezze, con tutto, con, e poi che non ti pagano. Noi facciamo capire a tutti, gente, a tutta Italia, che qua c'è una schiaventà, che non ci pagano neanche quello che devono pagare. Vogliamo i nostri diritti, che facciamo sapere, facciamo spiegare a tutti. Per questo dal nostro sindacato ci aiutano in diverse città e non ci fermiamo finché non danno i nostri diritti, finché non fanno entrare i nostri colleghi dentro. Sì, anche... Noi vogliamo che entrano, finché non entrano tutti noi non entriamo, siamo pronti sempre fuori i cancelli. Va benissimo, invece guarda, passiamo ad oggi, perché questa mattina era convocato ed è in corso tuttora un incontro alla prefettura con i vertici della cooperativa e rappresentanti dei lavoratori. Puoi aggiornarci? Sappiamo anche che alcuni lavoratori sono in presidio, diciamo si sono divisi tra un presidio davanti ai cancelli e un presidio sotto la prefettura. Puoi raccontarci? Sì, ci sono gruppi davanti ai cancelli, c'è un gruppo dei 40-50 persone davanti alla prefettura qua, che i nostri delegati dentro ci parlano e non sono usciti ancora, che c'è una trattativa con il prefetto e speriamo bene. Avete qualche informazione da dentro? È rimasta l'unica soluzione, se il prefetto non ci aiuta, noi da domani siamo pronti ancora a combattere e chiudere davanti ai cancelli lì. Per cui dico, non perché ci sono aggiunte. Abbiamo tutto, non ci possiamo permettere nessuno a prendere il nostro posto di lavoro, con alcuni dei nuovi che li portano loro. Noi lavoriamo lì da 7, 10 anni, 9 anni, non ci possiamo permettere il lavoro, l'abbiamo portato noi sempre avanti, è tutto. Dicevo, non ci sono grandi ancora novità, diciamo, sull'incontro in corso? Hai qualche novità? Non ho sentito bene, scusami. Dico, hai qualche novità sull'incontro in corso? Dico, c'è qualche informazione da darci? Ma ancora non abbiamo niente, dobbiamo aspettare ancora, non hanno fatto nessun aggiornamento. Siamo in attesa, aspettiamo e speriamo bene, ecco. Sì, dunque chiudiamo l'unica cosa, magari con ci sono state queste campagne diffamatorie che diceva Leonardo prima, diciamo tutti comunque hanno espresso un parere, comunque hanno giudicato aspramente le vicende di questi ultimi giorni, in particolare Leonardo ricordava l'importanza data comunque alla possibilità di lavorare negata dai lavoratori in sciopero agli altri lavoratori che volevano entrare. A questo proposito dicevo, anche la CGIL, ma la UIL, il PD e anche la stampa nazionale con Repubblica in testa hanno comunque espresso il loro parere. Voi cosa volete dire, diciamo, in risposta a queste calunnie che sono state lanciate sul vostro conto? Allora io posso dire su queste cose che il CGIL, il sindacato CGIL, si è sempre parlato di nascosto, non ha mai parlato avanti di noi, non ha mai fatto un riunione, non ha mai accordato con noi niente, sempre con loro e da nascosto facevano firmare qua, firmare là, senza sapere cosa è. Cioè, questi mi senti? Per me loro non hanno fatto mai di bene, che siamo stati 10 anni con loro che non ci hanno fatto neanche una riunione a spiegare niente alla gente. Ok, capisco. Vabbè, qui credo, se nessuno vuole aggiungere altro, possiamo anche chiudere questa corrispondenza. Intanto ti auguriamo. Chiudiamo qua e poi speriamo bene. Ci auguriamo anche noi che, diciamo, la trattativa in corso vada a finire bene, abbia un buon esito. Intanto portiamo la nostra solidarietà come radio e come trasmissione alla lotta dei facchini IKEA a Piacenza e rimaniamo comunque qui disponibili nel caso in cui ci fossero aggiornamenti. Ok, la ringrazio. Buona giornata, grazie ancora. Buongiorno, grazie. Buongiorno. centro nord proveniente a Bucciano, a donna volta zappavi tanto sangue e salute. Eppure sta gente non ci sentiamo un futuro, ma per me più forte l'amore per terra, la gente Bucciana mica del nord non poteva venire a campare, va in fabbrica a faticare e t'hanno stesso sangue e salute e in chiuso sente gente fornuta. Eccoci di nuovo in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 FM con Corrispondenze Operaie. Siamo per la terza ed ultima corrispondenza dopo quella molto sentita e importante da Piacenza, delle lotte dei lavoratori della logistica. Parliamo con Roberta, una lavoratrice della Multiservizi. Vado un attimo ad introdurre questa azienda, che è una delle numerose aziende municipalizzate della città, è di proprietà del comune, o meglio è controllata dal comune attraverso AMA, che detiene il 51% della proprietà. È una società che si occupa appunto di molti differenti servizi, sostanzialmente di polizia, manutenzione, giardinaggio. Ha quasi 4.000 dipendenti, un fatturato di 86 milioni di euro, ed è una delle varie aziende attenzionate in virtù del famoso e famigerato decreto Salva Roma, le cui ripercussioni come Radio Onda Rossa stiamo seguendo ormai da tempo, come una delle varie aziende in cui si minacciano tagli o addirittura dismissioni o privatizzazioni proprio per ripianare il debito capitolino. Ovviamente questo, uno dei primi chi sarebbe a pagare le conseguenze di questo salvataggio, tra virgolette, sarebbe chi non sarebbe affatto salvato, cioè i lavoratori. Lavoratori che già lamentano condizioni di lavoro molto pesanti e che, insomma, chiediamo direttamente a una delle protagoniste magari di inquadrarci un po' la situazione, di parlarci della sua condizione. Roberta, a te la parola se ci senti. Sì, grazie. Appunto io riprendo il discorso che dicevi tu di ripianare il debito. In realtà poi questa azienda è anche un'azienda in attivo e secondo me i tagli che vengono fatti dovrebbero invece cercare di far migliorare questa azienda e non dandole via, perché il comune dovrebbe avere maggior controllo su quello che fanno queste aziende, perché poi appunto i tagli ricadono sempre sui lavoratori. Per esempio il mio caso, che ci siamo ritrovati su un sito del comune di Roma che si chiama la Casa del Giardinaggio, dove appunto facciamo educazione ambientale per le scolaresche e quindi ci sono anche altre iniziative aperte al quartiere, quindi insomma voglio dire era proprio sul territorio che si lavorava. Finita la gara appunto si dismette tutto, finisce, i lavoratori vengono messi in cassa integrazione, oggi ridotto l'orario di lavoro da 8 a 3 ore, vessati da tutti i punti di vista, senza un criterio e progettazione su quello che poi è il lavoro vero, perché poi noi veniamo giardinieri a Multiservizi, veniamo da un percorso di formazione che era il progetto Polis, dove sono stati investiti i soldi, questo era con Rutelli addirittura, quindi noi insomma veniamo da un percorso di anni di LSU, preparati, formati, e poi niente, buttati via così come se niente fosse, cioè è assurdo questa cosa, è proprio assurda. E oggi ci ritroviamo a lavorare dentro un settore che non è il nostro, quindi non c'è un discorso di continuità e di formazione dei propri dipendenti. E lavoriamo dentro le scuole, facciamo pulizia delle scuole sia statali che comunali, ci hanno portato a firmare un contratto a 3 ore e oggi l'ultima, l'ho saputa 5 minuti fa, addirittura adesso ci hanno chiesto la cassa integrazione su 3 ore di aprile, maggio e giugno, quindi luglio, agosto non si saprà, perché noi lavoriamo su scuole statali e questo è. Quelli colleghi che lavorano invece sulle scuole comunali rischiano proprio il licenziamento da giugno, perché il giugno scade l'appalto, non si sa i soldi se ci verranno messi, se non ci verranno messi, e quindi è un disastro proprio su tutti i fronti. Scusami, gli altri Roberta, colleghi... sì. Sì. No, giusto per spiegare un po' meglio ai nostri ascoltatori il tuo caso, che forse può essere anche abbastanza paradigmatico. Allora, tu hai detto prima svolgevi una mansione con un appalto del comune, appunto, di giardinaggio, cioè diciamo che la multiservizi quindi fornisce dei servizi in appalto al comune, a scuole statali e municipali, eccetera. Voi lavoratori quindi di fatto siete molto divisi, non vi conoscete neanche, perché ovviamente servite diversi appalti e diverse situazioni, e quello che hanno fatto una volta scaduto l'appalto comunale di cui prima tu mi avevi raccontato, prima avete fatto un periodo di cassa integrazione, se non sbaglio. Sì, abbiamo fatto un periodo di cassa integrazione fino a dicembre, da agosto a dicembre praticamente. E dopodiché vi hanno ricollocato in un appalto che appunto non è assolutamente all'altezza o del tipo di quello per cui siete stati formati, certo, con un orario ridicolo e quindi uno stipendio ovviamente ridicolo, a pulire delle scuole fondamentalmente. Certo. Tu mi hai detto anche che molte delle tue colleghe o lavoratrici, proprio in virtù del fatto che queste ore non sono assolutamente sufficienti per fare quello che vi viene richiesto, poi sono addirittura costrette a trattenersi ulteriormente oltre l'orario di lavoro. Assolutamente sì, certo, questa è perché comunque poi tutto questo porta a una forma, come dire, di ricatto velato, perché ovviamente uno si deve mantenere il posto di lavoro, stai all'interno di una scuola e purtroppo sei costretta a lasciarla pulita, e quindi le 3 ore non bastano. E i tagli, eccoli dove vengono, poi sui lavoratori, sul lavoro, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. E questo avviene veramente, e non poi sull'organizzazione, sulle cose, ma solo sui lavoratori, veramente rischiando molti, perché insomma anche nelle scuole, per quanto uno dice sì, le pulizie, però corri, comunque usi dei prodotti per cui devi porre comunque attenzione, no? Quindi il rischio sicuramente della salute sui posti di lavoro è una cosa fondamentale, su cui poi i tagli vanno a incidere. E quindi diciamo, approfittando insomma del ricatto che vi viene che spende su di voi costantemente, appunto, che non ci sono i soldi per rinnovare l'appalto, che il comune non ha i soldi, eccetera eccetera, e soprattutto che ci sono tantissimi altri lavoratori e lavoratrici disoccupati oppure in condizioni analoghe, disposte a sostituirvi, piano piano vi hanno costretto ad accettare situazioni sempre a ribasso, cioè quindi prima sempre cassa integrazione, sempre, poi adesso questo contratto e questo appalto a 3 ore, poi adesso alcuni di quelli che lavorano per la scuola rischiano la cassa integrazione sulle 3 ore, quindi insomma una cassa integrazione, certo, di cui ci immaginiamo l'entità, e dall'altra parte invece altri, quindi ancora dividendovi, rischiano proprio di perdere totalmente l'appalto, insomma il lavoro, il posto di lavoro. Proprio in virtù della perdita di appalto. Insomma, qua di fatto sembra che loro trovino dei meccanismi ogni volta, passo passo, riescano progressivamente a far pagare tutta questa generale situazione, appunto, di crisi, di taglio, sempre a valle della catena, quindi sui più ricattabili. Certo, che sono i lavoratori. Certo. Sui lavoratori, appunto sulle condizioni poi del lavoro, perché anche questo è importante, perché quando io stavo sugli appalti del verde e dei giardini, comunque anche lì la sicurezza è fondamentale, perché quando tu sali su un trattore che magari ha problemi e sei costretto a salirci perché non puoi come dire, sollevare dei problemi, perché dire che un mezzo non è idoneo al lavoro significa sollevare un problema, e quindi vieni comunque anche lì come dire, messo in difficoltà. Questa lì, la salute, quando io devo montare un trattore su un furgone che però non è attrezzato con le norme di sicurezza, no? Noi è pericoloso, abbiamo dei lavoratori che si sono fatti male perché magari il trattore è scivolato dalla rampa perché non era bloccata, però sollevare questi problemi diventa un problema, e quindi comunque l'azienda se ne approfitta di tutto questo. E certo. Però voglio dire, quello che io dico io è che il comune, che deve, quando era comunque 51% comune, oggi 51% AMA, che deve fare il controllo su queste aziende. Cioè, in fondo l'azienda è un'azienda in attivo, cioè, non possono sempre pagare tutto i lavoratori. Cioè, certo. non è normale questa cosa, certo. Cioè, devi controllare. E non puoi dire nelle varie trattative, negli incontri che abbiamo avuto noi, no, non vi preoccupate, promesse su promesse, mozioni approvate dal Consiglio Comunale e poi il nulla, il licenziamento o 3 ore. Io vorrei sapere chi ha il coraggio di chiamare lavoro 3 ore. Cioè, non è il lavoro. Certo. Perché io comunque me ne sono trovato altri 3 ore, cioè certo. non si vive con 3 ore di lavoro. Quindi diciamo, se non ci stupiamo di fatto che un'azienda che comunque poi tra l'altro il 49% è privata, perché è della Multicoop, giusto? Sì, della Manutencoop cooperativa Veneto. Sì. Diciamo che se un'azienda si comporta in questo modo ci stupisce anche relativamente. Di fatto il comune, che avrebbe il compito di sorvegliare, certo, vigilare, anche perché di fatto queste sono aziende che hanno una finalità di assolvere un servizio, un'utilità, ed ovviamente è contraddittorio parlare di servizio, di utilità, se poi questa poggia sulla schiena e sulle condizioni di lavoro di chi insomma si ritrova nelle situazioni che ci hai descritto. Però di fatto il comune sembra di volta in volta sottrarsi alla responsabilità, a scaricare, anche in virtù di questo gioco di partecipazioni, di incrociate, per cui non si sa poi mai bene magari anche chi è il referente. Hanno sempre delle scappatoie con cui, per esempio adesso con la gara d'appalto che c'è stata delle scuole, parliamo sempre di verde, manutenzione del verde scolastico delle scuole statali, è stata vinta una gara da un raggruppamento di imprese di cooperative al 49% di ribasso, quando comunque noi, quando facemmo gli incontri al comune, dicevamo che non è possibile far vincere gare al 49% di ribasso. Certo. Perché non è possibile. Allora lì pure o lo paga il servizio, e allora il servizio non me lo dai, e allora non ha senso, o non lo pagano i lavoratori. O ricade sui lavoratori in sicurezza, salari bassissimi, cioè, non è un sistema che può andare questo, voglio dire. Senti Roberta, una domanda, scusa se mi intrometto. Sì. No, volevo chiedere invece a livello, nel vostro settore, a livello di sindacalizzazione, com'è la situazione, sì, e laddove ci siano i sindacati, come si sono mossi in questa situazione? Allora, i sindacati, diciamo che la triplice non si muove, in realtà se si muove sempre con complicità dell'azienda, e tende sempre a comunque in questo meccanismo di divisione dei lavoratori, perché noi purtroppo in questa azienda hanno tanti come dire, appalti, sfaccettature e realtà. Per cui tu hai come lavoratore hai difficoltà a conoscere, cioè io non conosco tutte le realtà ovviamente dell'azienda. Oggi scopro, entro quella del mondo delle pulizie delle scuole e sto scoprendo tante cose che non sapevo. Adesso hanno preso per esempio la pulizia della metro, ma insomma non sappiamo, non ci conosciamo, è difficile fare questo appunto di raccordo fra i lavoratori. In questo i sindacati dovrebbero avere il compito invece proprio di unirci, e invece insomma questa cosa non avviene, e per cui abbiamo il vuoto da questo punto di vista. E anzi, a volte ci hai detto che noi insomma con l'USI cerchiamo di fare il più possibile, ma è chiaro che a volte non essendo firmatari di contratto le cose, diciamo, veniamo parecchio osteggiati perché non ci vogliono negli incontri, e quindi ogni volta che siamo riusciti a passare è sempre perché un gruppo di lavoratori ha forzato la mano su gli altri sindacati, e quindi abbiamo detto no, ci dobbiamo essere pure noi. Che poi molto spesso ci è detto che le mobilitazioni dei lavoratori vengono anche usate dalle aziende, per fare pressioni sul comune, per avere più soldi, cioè diciamo c'è un uso molto strumentale anche di questa divisione, forse dei lavoratori. Certo, perché a ogni scadenza di appalto, noi insomma per diversi anni siamo andati avanti con le proroghe, no? E invece a ogni scadenza arrivava la lettera di licenziamento, in modo che poi i lavoratori andavano in comune, si mobilitavano per poi far arrivare la proroga, i soldi sulla proroga. E questo ha innescato anche un meccanismo a volte tra alcuni lavoratori di dire ma sì, tanto la solita storia, poi si aggiusta tutto, non è niente. E invece poi adesso la situazione non è più così, cioè le lettere di licenziamento arrivano davvero, il lavoro è sicuramente, le condizioni di lavoro sono sicuramente peggiorate, e ecco appunto ci ritroviamo da 8 ore a passare a 3 ore, insomma siamo veramente in grande difficoltà. Senti, a tal proposito, comunque diciamo ci sono delle mobilitazioni in corso contro la generale situazione del Salva Roma. Faccio un attimo un riassunto anche per chi ci ascolta. C'è stata una partecipatissima assemblea pubblica dei lavoratori dipendenti diretti amministrativi del comune, che ha inondato il Campidoglio, insomma, che sta risalendo a tutte le cronache locali e anche nazionali. E poi c'è stata un'assemblea più contenuta, ovviamente, insomma, di coordinamento tra vari lavoratori e lavoratrici delle aziende municipalizzate, entrambe notizie che abbiamo dato anche qui in radio. E in questa, tra l'altro, c'era anche una partecipazione, insomma, di lavoratori della Multiservizi. Una delle prossimi appuntamenti è questo sciopero chiamato per il mercoledì 14, quindi dopodomani mattina, chiamato da USI ed USB. Ci vuoi dire qualcosa in merito? Sì, come lavoratori del Comune di Roma appunto facciamo questo sciopero per appunto sulla questione, diciamo, del salario accessorio dei dipendenti comunali, questa è la questione. Esatto. Però diciamo che la piattaforma dei sindacati di base tenta, a differenza di quella dei confederali, di guardare alla questione nel suo complesso. Certo, e invece qui in questo, come lavoratori delle partecipate, comunque facciamo un'assemblea sempre in questa giornata, quindi io invito tutti i lavoratori comunque a essere presenti domani in piazza, perché dopo appunto domani, per dire no a questi tagli veramente senza senso sui servizi, e che poi vanno appunto, ripeto, sulla sicurezza dei lavoratori e sui luoghi insomma di lavoro. E quindi questa assemblea è un'assemblea di tutti i lavoratori e lavoratrici delle partecipate? Delle partecipate, okay. Sì. Ed è pubblica e si terrà? In Campidoglio. Ah, ok, perfetto, insomma. Sì. In supporto a questo sciopero. Diciamo che insieme allo sciopero, diciamo che c'è lo sciopero come lavoratori appunto del Comune di Roma, e come per le aziende municipalizzate comunque facciamo un'assemblea di supporto per tutti i lavoratori. Senti, io volevo concludere con una notizia, se poi magari la vuoi commentare, cioè il fatto che comunque i sindacati confederali stanno contribuendo a scomporre il fronte di lotta, per quanto si sono resi protagonisti anche di questa giornata di mobilitazioni in Campidoglio di cui abbiamo parlato, anziché aderire o spingere per un fronte unitario partecipando allo sciopero del 14, che era già stato chiamato con largo anticipo e a cui erano stati invitati più volte a dare la loro adesione, hanno preferito chiamare un nuovo sciopero proprio in virtù del fatto che ci sono stati segnali chiari che il salario accessorio sarà attaccato. Hanno deciso di chiamare un nuovo sciopero per lunedì 19, così insomma scomponendo il fronte e tra l'altro gettando anche molta confusione, perché c'è stato riferito che stanno staccando tutte le locandine e i cartelloni nelle bacheche che lanciano lo sciopero del 14 per sostituirli con le assemblee che loro faranno domani e che hanno chiamato in tutti i distretti vari delle amministrazioni comunali. Quindi questo conferma anche il quadro che ci dicevi tu in risposta. Ma assolutamente non mi stupisce, questo è il loro sistema, loro operano così all'interno delle aziende, per i loro interessi, dividere i lavoratori garantendo qualche contentino, appunto, certo, agendo da agenzia per il lobbismo nelle gare di appalti, eccetera, eccetera. Sì. E poi sì. Certo. Fino a che appunto non arriva la grande crisi e ci ritroviamo, certo, nella situazione. Beh, insomma, noi siamo anche in questo, diciamo, l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle quando due anni fa, no, forse di più, tre anni fa, c'è stato un passaggio dei quando, diciamo, Multiservizi ha perso il verde pubblico, quindi i parchi, i giardini, no? E c'è stato un passaggio di 80 persone ad AMA, e questo è stato gestito in maniera vergognosa dai sindacati, mandandoci anche, come dire, gente a loro vicina, gente che non c'entrava niente col verde, hanno fatto fare solo dei test così. Pensa che c'è un ragazzo disabile che è stato messo nelle graduatorie insieme a, come dire, del personale, operatori normali, cioè non hanno diviso, no? Come punteggi le due graduatorie. Sì, sì, sì, no? Sì. Quindi 80 persone erano tot iscritti a CGL, certo, tot iscritti, se li sono spartiti, diciamo, a CISL e a UIL. Questo è il modo di gestire le loro cose. Questo, senti, è. Roberta, ti ringraziamo. E quindi noi, insomma, ne sì, sappiamo, sì, sì. Le viviamo quotidianamente, certo, sui posti di lavoro. Certo, certo. Va bene, Roberta, ti ringraziamo molto, il nostro tempo è scaduto, dobbiamo dare parola al giornale radio, quindi insomma noi continueremo ovviamente a seguire le questioni sul Salva Roma Tutto e anche le vostre situazioni, ci continueremo ad aggiornare, intanto ti facciamo un grande in bocca al lupo, insomma, per il prossimo futuro. Un abbraccio. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E salutiamo, sì, salutiamo tutti con quest'ultima canzone di Nina Simone. Ah, prima però un aggiornamento sulla TNT da parte di Mirko. Sì, allora un breve aggiornamento su ciò che è successo, diciamo, l'ultima giornata di lotta che c'è stata nei magazzini TNT qui a Roma, in particolare che ha visto comunque partecipare tutti i magazzini di Roma, ricordiamo quello di Ciampino, quello di Via di Salone e quello di Fiano, dove comunque c'è stato un presidio di tutti i lavoratori, mentre in concomitanza, diciamo, il mattino successivo a Teverola, nello stabilimento di Teverola vicino a Napoli, i lavoratori comunque sono scesi in sciopero. La giornata di lotta ha avuto un buon esito, in particolare perché, diciamo, tutte le rivendicazioni avanzate negli ultimi 40-50 giorni dai lavoratori sono state finalmente formalmente accolte dalla TNT e dalle cooperative che operano, diciamo, in questi magazzini. In particolare sono stati riconosciuti il 100% di tutti gli istituti previsti nel contratto, il pagamento del TFR sul quale comunque nei giorni a venire si discuterà e si tratterà tra i delegati e i rappresentanti delle cooperative. e il riconoscimento del bono mensa, che comunque è previsto nel contratto nazionale ma non è mai stato applicato per i lavoratori. In più ricordiamo che il presidio che c'è stato qui a Roma ha visto, diciamo, una grande partecipazione di tutti i magazzini e non solo, infatti sono accorsi in solidarietà anche i lavoratori GLS, i corrieri GLS, che all'incirca un paio di mesi fa hanno scioperato e avuto comunque giornate di lotta intense. Ricordiamo che comunque la lotta qui a TNT in generale ancora non è finita, bisogna mantenere sempre alta l'attenzione e appunto ci appelliamo a tutti i compagni e le compagne in ascolto a sostenere la vicenda. Bene, noi salutiamo anche i corrieri della GLS, che sappiamo che spesso ci ascoltano, e invitiamo anche a sentire la trasmissione di oggi pomeriggio, il Tappabuchi, che sicuramente farà un approfondimento anche sulle lotte della logistica. Per questa puntata di Corrispondenze Operaie è tutto, vi lasciamo con una meravigliosa canzone di Brecht dall'opera dei Tre Soldi, che parla appunto della vendetta silenziosa di una pulitrice in un hotel. You people can watch while I'm scrubbing these floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you couldn't ever guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night, and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing, and you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window, and you say, what she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. Gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say, why do they spare that one? Through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the the Black Freighter runs a flag up its masthead. head and the cheer rings the air. Radio Andalucía. La entrañable y transparente. 87.9 FM.